lasciami un biglietto quando parti. Nel suo cielo bianco leggerò tutto il fuoco e l'acqua che volevi dirmi prima che il tuo treno se ne andò. Chiudi la sua busta con un bacio, nel suo bianco sogno ti vedrò correre nell'aria come un aquilone prima che il vapore fischierà. Resta nella voce della tua canzone, resta nel mio tempo, nella tua stagione nascerò. Guardami negli occhi quando torni, nei suoi bemolli sentirò la tua voce accesa, i colori dell'attesa, prima che il silenzio canterà. Portami il sorriso di un saluto tra le ciglia nere, ascolterò il battito degli occhi, il suono dei rintocchi prima che il tempo fermerà. Resta nella voce della tua canzone, resta nel mio tempo, nella tua stagione crescerò. Resta nella voce della tua canzone, resta nel mio tempo, alla tua stazione scenderò.